il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. È stato il sistema idrografico minore a causare i principali problemi di allagamento in varie zone del Veneto durante le cospicue piogge di qualche settimana fa. Il sistema dei grandi frutti e dei grandi fiumi sembrerebbe quindi aver retto, ma questo non vuol dire che siamo di fronte a una notizia del tutto buona. Al contrario, sembra che il problema si possa allargare. Potrebbero infatti non bastare le grandi opere di sistemazione degli argini e dei bacini di laminazione, già previste ma in ritardo di realizzazione, a garantire la sicurezza idraulica della regione. C'è tutta una sterminata rete minore che appare essere non adeguatamente preservata e per il cui mantenimento le competenze non sono solo pubbliche, ma spesso di privati cittadini che ne sono proprietari. Il quadro è complesso. Proviamo oggi a capirne di più con Andrea Crestani, direttore dell'Unione Veneta Bonifiche, l'unione dei consorzi di bonifica che non a caso si occupa anche di irrigazioni e di miglioramenti fondiari. Direttore, sappiamo che il Veneto è una regione complessa dal punto di vista idraulico. Qual è la reale situazione? Sì, il Veneto è sicuramente una tra le regioni più complesse. Noi come consorzio di bonifica gestiamo circa 26.000 chilometri di canali, di cui 18.000 chilometri esclusivamente a rete di scolo e quindi di flusso delle acque meteoriche. Il Veneto non ha, come diceva lei, non ha solo bisogno di grandi opere, ma ha bisogno di una continua manutenzione di questo reticolo idraulico minore, così come viene definito. I grandi interventi hanno sicuramente una ricaduta sul territorio importante, soprattutto per i grandi fiumi, però l'ultimo evento emergenziale del febbraio 2014 ha dimostrato come la manutenzione, gli interventi in infrastrutture sui reticoli minori sia estremamente importante. Negli ultimi 4 anni si è investito poco perché la regione ha quasi totalmente azzerato le risorse finanziarie ai consorzi di bonifica per le opere pubbliche, dirottando le risorse alle grandi opere che necessarie dopo l'alluvione del 2010. Quindi la pioggia intensa, l'evento calamitoso sicuramente eccezionale, caso superato i 300 mm di pioggia nei 6 giorni, ha messo a dura prova, sicuramente ha evidenziato le criticità del reticolo idraulico minore. Perché questo problema? Sappiamo che nel Veneto ci sono la metà degli impianti idrovori di italiani, questo perché siamo una regione a un basso livello del mare, diciamo, quasi a livello del mare. 200.000 ettari su 1.200.000 che sono i comprensori di consorzi di bonifica, quindi un terzo del nostro territorio è... le acque meteoriche hanno un deflusso non naturale, ma defluiscono solo attraverso azioni di pompaggio dei 400 circa impianti idrovori che abbiamo posizionato in questa piccola fetta di Veneto. Sono 400 su 750 in tutta Italia, quindi da lì si capisce esattamente quanto delicato è il nostro territorio, fragile da un punto di vista idraulico. Quindi al di là delle piogge eccezionali basterebbe qualche problema per far andare sott'acqua questa zona o un'altra del Veneto, e qui stiamo parlando quindi non di cose speciali ma di manutenzione ordinaria, quindi ancora più grave il fatto di questi tagli che lei citava prima. Sì, no, la manutenzione ordinaria noi la garantiamo attraverso i contributi che tutti gli anni i contribuenti, quindi i proprietari di immobili, pagano al bonifica. Abbiamo bisogno di interventi di manutenzione anche straordinarie, di opere da eseguire sui reticoli idraulico minore. È inevitabile che a fronte di questo bisogno anche di un'altra fortissima azione, che è il coinvolgimento dei proprietari nella rete privata, quindi che è oltre alla rete che noi gestiamo, quindi quei 28.000 chilometri, 26.000 che vi dicevo, e andiamo nelle aree private, proprietà comunali o di privati cittadini, agricoltori e residenti in aree urbane. Qua c'è una necessità fortissima perché molto spesso noi gli allagamenti sulle aree urbane le abbiamo per mancata manutenzione delle aree private, per mancanza manutenzione degli impianti fognari, li abbiamo per tutta una serie di modifiche ai reticoli che sono successi dopo che si è insediato al posto della superficie agricola e abbiamo insediato il cemento, e quindi abbiamo tagliato i reticoli idraulici, il deflusso naturale delle acque, e abbiamo poi lasciato all'incuria completamente queste aree. Abbiamo trasformato in piste ciclabili i fossi lungo le strade, le canaline di scolo all'interno delle aree urbane sono diventate più un intralcio che una necessità e quindi sono state chiuse, e tutto questo non favorisce, non contribuisce a migliorare la capacità di invaso del nostro territorio. Ecco che devono essere messe in atto delle azioni, oltre alle grandi opere, agli investimenti sui reticoli idraulici minori, anche nelle aree private. Ecco, allora, torniamo su questo interessante argomento tra poco, ci fermiamo per qualche minuto. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Questo mare di parole, quanto basta per non pensare? Non sei invitato a questo prossimo mio errore, quanto costa ricominciare? Mi sento già in un'altra vita, so bene cosa intendi. La differenza è netta tra il tuo vivere e i miei sensi. Il tuo vivere e i miei sensi. In mezzo a quelle cose che ogni giorno nella vita mi deludono, c'è spazio sufficiente anche per quelle che sapevi dare tu. Fare tanto grande la tua strada, mi son fatta il cuore piccolo, ma persino il tuo sorriso e la sua scia, rifammelo e vai via. Trattengo il fiato apposta per non far rumore. Quanto basta per fare male? E mi concedo un altro rischio da affrontare, perché a volte una porta può sembrarti una svolta, ma l'hai chiusa ogni volta. E sfidando tutti i preconcetti, ho avuto i miei consensi, ma sono ormai troppo distanti il tuo vivere e i miei sensi, il tuo vivere e i miei sensi. In mezzo a quelle cose che ogni giorno nella vita mi deludono, c'è spazio sufficiente anche per quelle che sapevi dare tu. Ma persino il tuo sorriso e la sua scia, rifammelo e vai via. E avrò perso pure l'occasione di vivere ogni giorno insieme. Ma dietro tanta indifferenza entra luce in questa stanza, e so che mi vuoi bene. Rifammelo e vai via. Torniamo in linea con la trasmissione del Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando con Andrea Crestani, direttore dell'Unione Veneta Bonifiche. Stiamo un po' cercando di capire com'è la situazione del territorio idraulica del territorio veneto. Abbiamo detto che probabilmente anche da parte dei cittadini privati, dei molti proprietari di questi di brevi tratti di fossi, di scoli, serve una maggiore attenzione, forse una educazione al mantenimento del territorio. Quali sono le operazioni che si potrebbero fare anche per sensibilizzare queste persone o per in alcuni casi anche garantire che venga fatta una manutenzione o peggio che non vengano fatte appunto delle opere su scoli minori che non dovrebbero essere fatte? Allora, è inevitabile che il futuro ci riserva la necessità di cambiare modo del territorio e soprattutto di vivere su un territorio, quindi anche con il coinvolgimento reale di ogni singolo cittadino, perché non bisogna solo quando capita l'emergenza puntare il dito e accusare qualcuno, ma bisogna fare anche tra virgolette un esame di coscienza e capire se effettivamente ognuno ha messo in atto una buona conservazione del territorio dove vive. Allora va bene fermare l'urbanizzazione, va bene fermare l'urbanizzazione quella non governata, va benissimo il rispetto assoluto di pareri di compatibilità idrauliche che dovranno essere obbligatori, ma un fortissimo rispetto da parte di tutti, e soprattutto abbiamo una grandissima necessità che è quello di ricreare, diciamo così, l'invarianza idraulica nelle aree già edificate. Cioè vuol dire che bisogna recuperare tutte quelle scoline private all'interno delle aree residenziali, recuperare tutti i microinvasi, le aree che possono essere destinate a microcasse di espansione. Bisogna che le aree edificate, cementificate, si compensino e quindi non vadano ad aggravare i reticoli idraulici che già sono molto spesso compromessi dalle fortissime piogge oramai dovute agli eventi calamitosi. Nelle campagne un altro tipo di atteggiamento nuovo o che riporta comunque alle vecchie tradizioni è quello di mantenere puliti tutti i fossi, recuperare invasi che molto spesso sono stati chiusi, o la meglio le dimensioni dei fossetti e dei fossi delle campagne che oramai sono ridotti a un nulla, ripristinarli. Questo vorrebbe dire creare non una grandissima cassa di espansione, ma una capacità di invaso, quindi una possibilità di invasare milioni di metri cubi però lungo una serie di canali che sono distribuiti sulle campagne, quindi una cassa di espansione diffusa. Questo, se andiamo un tempo, era una buona pratica agricola obbligatoria nelle campagne, certo. È stata nel tempo abbandonata. Ecco, allora, come chiediamo ai residenti nelle aree urbane di mantenere bene anche la scolina davanti al proprio giardino che magari disturba, e invece di chiuderla o di metterci un tombino sarebbe meglio ripristinarla e far sì che questa possa contenere acqua quando piove, anziché farla andare nel garage di casa, così nelle campagne ricreare questi importanti invasi che sono i reticoli idraulici sotto la scala minori, perché sono nelle aree private. Ecco, le grandi opere sappiamo chi le deve fare, quindi questa rete di piccole opere che abbiamo visto sono altrettanto importanti, chi le deve fare e ci sono delle risorse anche per i privati che possono, a cui possono accedere? Allora, sulle aree ci sono situazioni che sono estremamente collegate ad aree private, quindi nelle aree residenziali proprio dove la proprietà è individuale e nelle campagne, lì purtroppo se non ci sono interventi straordinari, per esempio parlo delle campagne attraverso finanziamenti comunitari, potrebbero essere anche collegati alle buone pratiche ambientali, alle condizionalità, in realtà toccherebbe i privati, perché questo vuol dire un cambio di atteggiamento nel buon mantenimento di un territorio. In altre aree, soprattutto nelle aree pubbliche comunali, i comuni assieme ai consorzi di bonifica potrebbero trovare, come abbiamo già fatto, protocolli d'intesa dove o con la regione o con risorse messe a disposizione dagli stessi enti cominciare un'azione di rigoverno del territorio dal punto di vista idraulico. Importantissimi sono per esempio con queste azioni importanti di monitoraggio che molti comuni, soprattutto in provincia di Venezia, hanno adottato, sono i piani delle acque, e noi chiediamo che siano estesi a tutto il Veneto in forma obbligatoria. È una forma di monitoraggio che individua i punti critici a livello comunale e le procedure poi di intervento e anche di reperimento delle risorse finanziarie. Bene, la ringrazio direttore, speriamo di risentirci più avanti anche con buone grazie notizie, sapendo che magari questi grandi piani sono stati realizzati e che non ci siano avvenimenti come questi. e concludiamo la trasmissione con alcune brevi notizie. Prosegue il lavoro di informazione della Regione Veneto e di Veneto Agricoltura in tema di agricoltura sociale. Durante i prossimi mesi, da marzo a maggio, in Corte Benedettina Legnaro si terrà un ciclo di seminari per approfondire il tema e fornire agli interessati le informazioni tecniche. Il primo appuntamento previsto è il 18 marzo, seguiranno altri 3 moduli di approfondimento tra aprile e maggio. Il seminario potrà anche essere seguito in diretta streaming sul sito www.piave.veneto.it. Arriva da Coldiretti una banca dati di aziende agricole a cui potranno accedere i giovani italiani che vorrebbero lavorare in agricoltura anche solo nella pausa scolastica estiva. Il portale, in corso di autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro, dovrebbe favorire l'incontro tra domanda e offerta. Attraverso un apposito sito web nazionale verranno acquisite, archiviate e rese disponibili in forma pubblica sia le richieste di manodopera delle imprese che i curricula e la disponibilità dei lavoratori. Lo strumento informatico dovrebbe essere online a breve. Il gruppo Donne in Campo della CIA di Padova organizza anche quest'anno la Festa della Donna, un momento di incontro per condividere obiettivi e necessità delle imprenditrici agricole, ma anche per riflettere sul drammatico fenomeno della violenza sulle donne. Le imprenditrici agricole aspettano quindi la cittadinanza al mercato contadino della Guizza, in Piazzale Cuoco a Padova, sabato 8 marzo dalle 8.30 alle 12.30. Anche per questa settimana è tutto, vediamo appuntamento alla prossima con il quadrifoglio, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.